corri, dove vai? Le vedi qua, sono piegate sul tavolino un po', improvvisamente si accendono le luci, pang! Sono... Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Ci abbiamo i mortaretti dietro la seggiola. Dopo un anno di Cuore e Denari, so che c'è un altro grande classico che è l'Eleuterococco. Sì, l'Eleuterococco, chiamato anche... Che soddisfazioni mi dà? Siamo noi. Mi sono brava. Impegnata. Brava. Fai un contratto e vedrai che non mi perderai. Cuore e Denari, di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccola qua, la campanella della scuola, un suono inconfondibile. Quanti ricordi, se ve ne è acceso uno in questo istante, scrivetecelo subito al 349-238-6666. Parleremo anche di ricordi, ma a tante famiglie all'ascolto. Ricorderà soprattutto anche che mancano ormai meno di 2 settimane per completare le procedure di iscrizione online al primo anno di un nuovo ciclo scolastico. Una scelta importante, ne abbiamo parlato, da fare insieme ai nostri bambini e ai ragazzi. La scuola non si può che scegliere con il cuore, pensando naturalmente alle sensazioni che ci dà, sperando che sia un luogo accogliente per i nostri figli, popolato da persone attente, con un clima positivo. Sappiamo però che anche in questo caso i denari possono avere la loro importanza. Spesso gli istituti scolastici non navigano in buone acque e chiedono un aiuto, un contributo economico alle famiglie. Anche le famiglie stesse però in molti casi fanno fatica ad arrivare a fine mese, ed ecco che questo contributo, che dovrebbe essere volontario, può pesare non poco. Purtroppo però l'aggettivo volontario in tanti casi sembra messo un po' lì per caso, e questi soldini diventano di fatto vincolanti per completare l'iscrizione. È capitato anche a voi? A quanto ammontava, ve lo ricordate, il contributo che vi è stato chiesto? Iniziate a raccontarcelo al nostro numero verde 800 24 00 24. Ne parleremo nella prima parte del programma per la pagina di Denari. E sentendo parlare di scuola, chissà quanti di voi sono andati con la memoria ai tempi della loro infanzia, della loro adolescenza, tempi che restano un po' dentro di noi col potere dei ricordi. Ricordi a volte molto belli, a volte invece magari solo per qualcuno, faticosi, pieni di dolore. Eccovi allora il quesito a cui risponderemo nella parte cuore della nostra trasmissione. Vi capita di pensare che qualche problema, qualche difficoltà della vostra vita di oggi sia una sorta di residuo di qualche ricordo del vostro passato che non avete elaborato bene, che oggi, ancora a distanza di anni, vi lascia il segno? Chiamateci e raccontateci. Il nostro numero verde è sempre a vostra disposizione. Manca poco, ormai meno di 2 settimane per completare la procedura online per scrivere i nostri bambini e i nostri ragazzi al primo anno di un nuovo ciclo, e quindi parliamo di chi a settembre frequenterà prima elementare, medio o superiore. I denari ci creano qualche preoccupazione anche quando si tratta di scegliere la scuola, ahimè, ed è per questo che torniamo a parlarne oggi. Molte scuole, come anticipato, per completare l'iter di iscrizione chiedono infatti anche il versamento del cosiddetto contributo volontario, vale a dire una cifra variabile necessaria per venire incontro, per sostenere alcune spese dell'istituto, e che non può arrivare se non dai risparmi dei genitori e degli alunni. È una questione che, lo sappiamo, si ripropone ogni anno, non senza qualche polemica, perché nonostante l'aggettivo volontario, se si sceglie di non versarlo, molte scuole arrivano di fatto a rifiutare l'iscrizione. Quest'anno si aggiunge qualche novità dal Ministero che andremo a scoprire insieme ai nostri ospiti, che voglio subito presentarvi. In linea con noi Carla Ardizzone, giornalista di scuola.net. Ciao Carla. Buongiorno a tutti, buongiorno. E abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Italiana Presidi. Benvenuto. Buongiorno. Naturalmente aspettiamo soprattutto i vostri racconti, le vostre domande. 800 24 00 24, siete alle prese con le iscrizioni online? Vi è stato chiesto quest'anno in passato un contributo della scuola dei vostri figli per iscriverli? Ed è stato un versamento volontario solo di nome o anche di fatto? A quanto ammontava? Intanto Carla, iniziamo con un ripassone. Dal 15 gennaio fino al 15 febbraio è possibile l'iscrizione ai primi anni delle scuole dell'obbligo e di diversi gradi. Andiamo a fare un ripasso generale. Dicevi tu, c'è tempo fino al 15 febbraio per completare la procedura. Sì. Basterà collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizioni online. A quel punto, diciamo, la prima mossa da fare è quella di registrarsi al sito, se non lo si è già fatto. Infatti, diciamo, il Ministero ha dato qualche giorno in più rispetto alla partenza dell'iscrizione per potersi registrare al sito. A quel punto basterà seguire la procedura. Allora, io direi, Carla, se tu metti giù il telefono, noi ti richiamiamo e intanto noi continuiamo a parlare con Lori Peschiamo e noi abbiamo il dottor Rusconi. Dottor Rusconi, con lei parleremo anche non solamente di iscrizioni, tra l'altro molti ragazzi segnalano qualche difficoltà all'iscrizione online. Le sembra possibile? Ma guardi, io parlavo proprio ieri con la responsabile dell'ufficio di relazioni con il pubblico che gestisce con una serie di giovani le iscrizioni online e mi dicono che le cose stanno andando abbastanza bene, meglio degli altri anni, d'altronde se non sbaglio è il terzo anno che c'è questa nuova procedura. E tenga conto che se si hanno poi difficoltà sia si può telefonare al Ministero, all'ufficio di relazioni con il pubblico che è attivo dalla mattina alle 9 fino, mi sembra, alle 6 del pomeriggio, sia si può andare, se metta che un genitore, dobbiamo anche mettere in conto questo, non abbia il computer oppure non lo voglia adoperare eccetera, può andare alla scuola e si può fare dare una mano anche dalla scuola. Sì, cioè in poche parole l'amministrazione dello Stato deve essere efficiente, io aggiungerei un'altra parola, gentile. Bravo, questa parola mi piace molto, preside. Restando però fuori da qualsiasi polemica e da qualsiasi distinguo, perché una scuola chiede il contributo? Lei ha una lunga esperienza e ce lo può senz'altro spiegare. Nel concreto, preside, in cosa i nostri ragazzi poi vedono utilizzate queste risorse? Materiale, sussidi, manutenzione, pulizia? Ma guardi, negli ultimi 15 anni le leggi finanziarie o di stabilità, come si vogliano chiamare, hanno falcidiato proprio i fondi destinati all'istruzione, alla scuola. Solamente nei 3 anni di gestione Tremonti, le posso dire, e questa non è polemica, è semplicemente realismo, c'è stato un taglio di 8 miliardi e 230 milioni di euro che non sono stati reimpiegati nella scuola. Molti di questi fondi, naturalmente recuperati dallo Stato, erano anche per spese in qualche modo, non dico superflue, ma quasi, però non è stato reinvestito nulla sulla scuola, per cui adesso recentemente il ministro, appunto il ministero, ha deciso di dare dei fondi che stanno arrivando alle scuole, ma sono una goccia nel mare delle necessità, cioè in poche parole la scuola, se non avesse il contributo volontario dei genitori, rimarco l'aggettivo volontario, con scuola.net abbiamo spesso detto che chi per caso se una scuola appunto quasi lo imponesse, facendomi, passi la parola forte, una sorta di ricatti, se non paghi il contributo non ti do la pagella eccetera, sta commettendo non una cosa illecita ma una cosa illegale che è molto più grave, insomma siamo nell'ambito del reato penale. Quindi il contributo volontario è fondamentale però per poter mandare avanti la scuola dal punto di vista non semplicemente della carta igienica o del gesso che serve, ma direi anche per necessità come i CD, i DVD, i materiali che occorrono proprio ad una scuola per andare avanti, i libri e così via. Naturalmente il contributo volontario varia da scuola a scuola e deve essere determinato dal consiglio d'istituto, non è un'iniziativa del singolo preside o dei docenti. E nel consiglio d'istituto fanno parte anche i genitori. I genitori e nelle scuole superiori anche gli studenti. 800 24 00 24, ci state già chiamando, state già inviando messaggi. Marco, ad esempio, al 349-238-6666 ci scrive: a mia figlia hanno chiesto 100 euro di contributo volontario per la preiscrizione alla quarta superiore, ma in fondo poi è obbligatorio. Carla, proviamo a quantificare. Fino a quanto può arrivare questo contributo? Anche se sappiamo che ogni scuola fa un caso a sé. Esatto, è un caso a sé, proprio come dicevi, nel senso che ovviamente a seconda di quanto le scuole spendano per laboratori, macchinari, tecnologie, ovviamente servono più soldi, proprio per dare anche offerta didattica al pari di quello che uno studente si può aspettare. Per questo, diciamo, il contributo scolastico può superare anche 200 euro nei professionali e nei tecnici, dove i laboratori insomma hanno un loro costo di manutenzione, mentre diciamo per quanto riguarda i licei si aggira intorno ai 100 euro, ecco, se quantifichiamo. Allora, abbiamo in linea con noi Fabio, ci chiama da Brescia, poi andiamo subito dopo a Treviso. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno a voi, complimenti. Grazie. Argomento bellissimo e nello stesso tempo doloroso per le famiglie. Un po' spinosino. Abbastanza, io soprattutto ho due figli che fanno la prima superiore, il quale ieri mi è arrivato il primo bollettino del liceo artistico di 130 euro più 10 euro di assicurazione, e aspetto il secondo che sarà sempre intorno a quei 120 euro più o 130, perché dipende appunto dalle scuole. Sì. Sono cifre importanti, soprattutto certo, per chi lavora da solo, per chi deve tirare avanti, la chiamiamo la carretta. E una cosa che io adesso interverrò con l'istituto scolastico, dirò se è possibile dividere, visto che ci bollettini poi me li scompilo io, se si può dividere in due tranche il pagamento, ecco, di poter andare anche incontro a queste formule. Mi sembra una buona richiesta, e soprattutto, Fabio, potrebbe essere anche opportuno chiedere alla scuola, come ci suggerirà immagino il nostro preside, dove andranno a finire, no, questi soldi che vengono raccolti attraverso il contributo volontario. Preside, quale consiglio possiamo dare a Fabio? Due figli, due bollettini? Ecco, come diceva lei e come stava accennando Fabio, il contributo, rimarco, volontario, cioè un genitore paradossalmente potrebbe rifiutarsi, succede anche questo, di non dare neppure mezzo euro. Il contributo volontario viene stabilito non solo come percentuale ma anche come destinazione d'uso dal consiglio d'istituto. Teniamo conto, lo dico anche agli ascoltatori, che il presidente del consiglio d'istituto è un genitore che è stato eletto dai genitori stessi, per cui bisognerebbe rivolgersi per iscritto al genitore presidente del consiglio d'istituto per dire ad esempio che i criteri siano criteri assennati. Faccio un esempio: Fabio stava dicendo io ho due figli, tutte e due fanno il primo eccetera, molti consigli d'istituto per esempio stabiliscono che in rapporto, non chiedendo il certificato diciamo così reddituale della famiglia, ma affidandosi all'intelligenza e all'onestà delle persone, dicendo se hai due figli, se hai tre figli, se il contributo che ti chiediamo, ripeto, sempre volontario, può essere ridotto in maniera tale che una persona non si senta in qualche modo vessata, ma nello stesso tempo sa che non è stato emarginato anche dalla contribuzione alla scuola. L'altra cosa è che il consiglio d'istituto dovrebbe stabilire la destinazione di questi soldi. Anzitutto sono soldi che devono andare in bilancio, per cui i bilanci della scuola sono pubblici e qualsiasi genitore, qualsiasi studente può chiedere appunto di verificare come siano state spese. Poi io consiglio alle scuole, ai consigli d'istituto e ai genitori che ne fanno parte, di fare nell'ambito del bilancio della scuola una specie di sottobilancio. Io non sono un fiscalista, ma si può fare una scheda in cui si dice su 1000 studenti 800 famiglie hanno pagato, abbiamo preso non so 80.000 euro, li abbiamo spesi in questo modo. Trasparenza e, aggiungo, gentilezza della pubblica amministrazione vorrebbe che queste prassi che sono in vigore in alcune scuole si diffondessero. Andiamo a Chiara, che ci chiama da Treviso. Benvenuta Chiara. Sì, buongiorno. Ha già fatto l'iscrizione, perché... Chiara? Sì, sì. Beh, io l'ho fatta a suo tempo, ho una figlia in quarta superiore e faccio parte del consiglio d'istituto. Ah, bene. Quindi ho sentito, diciamo così, quello che succede, appunto la problematica. Vi posso dire che quando i genitori non pagano, cioè, o meglio, quando insomma, c'è una fetta consistente di genitori che magari non paga appunto per il fatto che il contributo è volontario e non capisce appunto dove vadano a finire questi soldi, i problemi nella scuola si avvertono, perché vengono usati per il funzionamento, diciamo, pratico, però anche ad esempio per pagare l'assicurazione del ragazzo. Si sono trovati di fronte al problema che, ad esempio, non so cosa devono fare con il ragazzo che magari non ha pagato il contributo volontario. In teoria la scuola non potrebbe pagare l'assicurazione, quindi questo non potrebbe uscire né per gite né per uscite didattiche, e questo è un problema. Poi altre cose, succede che ad esempio spesso tanti ragazzi magari della scuola sono meno abbienti, magari non hanno i libri di testo, i professori si sono sempre prodigati a fornire fotocopie in quantità notevoli a questi ragazzi, però appunto mancando questi fondi tante volte si trovano nell'impossibilità di farlo. Fare fotocopie. Ecco, diciamo che c'è stata anche così una disinformazione a livello di televisione, programmi che hanno appunto lanciato accuse contro questo diciamo contributo tra virgolette appunto volontario. Che però è volontario ed è molto utile. Esatto, è fondamentale, non è utile, è fondamentale. Fondamentale. Grazie a Chiara che ci ha chiamato da Treviso, 800 24 00 24, ma a Carla e al preside volevo segnalare molti messaggi che arrivano al 349 238 6666 che ci dicono: ma è volontario o è obbligatorio? Ma che paese è? Un paese che confonde le due cose. Ne sintetizzo un po' questa corrente di pensiero con un messaggio che mi sembra molto, molto chiaro. Carla, come avviene questa forzatura? Passa attraverso i ragazzi, attraverso che tipo di comunicazione? Perché c'è questa un po', no? Questa confusione? Molti esatto. Si parla proprio di confusione, nel senso che spesso si confonde, e in realtà devo anche un po', diciamo, riprendere la telefonata che abbiamo sentito prima. In realtà ci sono delle spese obbligatorie, diciamo, che sono quelle la scuola anticipa per lo studente, che sono appunto l'assicurazione, sono le spese per il libretto delle giustificazioni. Sì. Queste sono delle spese che ogni famiglia deve comunque dare alla scuola in quanto rimborso spese, diciamo. Per quanto riguarda invece il contributo volontario, che in teoria dovrebbe smettere di essere utilizzato come fondo di funzionamento, perché dovrebbe arrivare dal Ministero, ma dovrebbe essere proprio per implementare la didattica, per tutte le iniziative che una scuola può fornire a livello appunto di educazione, del valore aggiunto agli studenti, quello è assolutamente volontario. Quindi c'è un po' di confusione per quanto riguarda proprio come vengono spesi questi soldi. E diciamo che per quanto riguarda le modalità sono diverse, vengono alcuni presidi fanno delle circolari. Ad esempio, 3 anni fa una dirigente in una circolare lasciava intendere che chi non pagava il contributo avrebbe avuto ripercussioni sul voto in condotta. E, per il resto ci sono dei richiami verbali anche sugli studenti, il personale amministrativo che viene in classe richiama i ragazzi e dice: ehi, se non facciamo questo contributo non potrete essere iscritti all'anno successivo, ad esempio. Oppure si ricorda semplicemente: ecco, questa famiglia deve pagare, mettendo insomma in una brutta condizione davanti a tutti gli altri i ragazzi. Cuore e denari. Ricordati di me questa sera che non... Intrappolati dalla e nella propria storia di vita. A volte alcuni di noi si trovano vittime del loro passato, eventi più o meno traumatici che non siamo riusciti a risolvere o che pensavamo di aver risolto, tornano invece sulla scena nel qui e ora e non ci lasciano vivere come vorremmo. Ci sono ricordi della vostra infanzia, adolescenza e giovinezza che vi fanno soffrire o magari vivere diversamente da come vorreste, ricordi nei quali e dei quali vi sentite come prigionieri. Allora, cosa cosa fate voi per ridurre l'impatto che hanno nella vostra vita? Cosa vorreste fare? Chiamateci, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola. Negli anni della scuola troviamo tanti ricordi importanti, hanno radici tanti incontri ed esperienze che ci segnano e che ci accompagnano quando cresciamo. Insomma, la scuola è una questione di cuore per molti aspetti, ma è anche questione di denari. Stiamo parlando dei contributi scolastici volontari chiesti dalle scuole alle famiglie quando ci si iscrive, volontari nella norma ma obbligatori di fatto. Ne stiamo parlando con Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Italiana Presidi, e Carla Ardizzone, giornalista di scuola.net. Marina ci scrive: ma perché non possono cambiare l'aggettivo a questo contributo? È una bella idea, no? Preside, potremmo metterlo, no? Se tutto questo volontario obbligatorio rende tutto, chiamiamolo contributo utile. Sì, vorrei però fare un chiarimento, perché prima mi sembra chiara l'ascoltatrice del Consiglio d'Istituto ha dato una notizia non esatta. Sì, grazie. Cioè non è che, allora, le scuole normalmente devono avere un'assicurazione che viene pagata dalla regione. Naturalmente le regioni, per risparmiare, coprono i ragazzi con assicurazioni che danno indennizzi limitati. Allora le scuole, ormai è un uso invalso da almeno 30 anni, fanno un'assicurazione integrativa, per cui se per caso un genitore non pagasse né il contributo volontario né l'assicurazione integrativa, non è che suo figlio non potrebbe andare in gita scolastica, come diceva la nostra ascoltatrice. Andrà in gita scolastica e in caso di incidente avrà un indennizzo minore perché non ha pagato l'assicurazione, insomma. Quindi stiamo attenti a dire alcune cose, cioè dire che qualche scuola ha detto, se suo figlio non paga l'assicurazione, ripeto, integrativa, non può uscire, sta dicendo una falsità, e come tutte le falsità vanno smascherate. Ecco, vanno segnalate a chi, preside? Beh, all'ufficio scolastico regionale, poi ci sono i giornali, ci sono i media, c'è il consiglio di istituto, insomma ci sono molte tante forme mosse nella da nostra fare. Democrazia. Preside, però c'è una novità che vogliamo raccontare, no? Il Ministero dell'Istruzione ha aumentato quest'anno lo stanziamento dei fondi per le spese di funzionamento delle scuole, 50 milioni di euro in più. È una notizia che naturalmente aveva fatto ben sperare, perché sembrava che potesse evitare che le scuole chiedessero ancora l'annoso contributo alle famiglie. Invece non è andata proprio così. Carla, cosa avete scoperto voi di scuola.net? Esatto, noi abbiamo fatto un'indagine a tappeto su varie scuole italiane, abbiamo chiamato il preside di tutte queste scuole da Milano, Brindisi a Roma, e abbiamo scoperto che questi presidi sono sicuramente contenti di questo tentativo, ma lo considerano un tentativo poco riuscito, perché calcolando che più o meno con questi nuovi fondi arriveremo a circa 40 euro a studente in un istituto di medie proporzioni, una scuola di queste proporzioni comunque chiederebbe 100 euro come contributo volontario di base, per riuscire ad arrivare a dare tutti i servizi che deve dare. Quindi diciamo che loro pensano che si dovrebbe stanziare almeno il doppio. Ecco, questo abbiamo, è una voce unanime di quasi tutti i presidi, pensano che non sia sufficiente quello che è stato stanziato dal Ministero, anche se è stato un buon tentativo. Preside, è così? Ma sì, guardi, è sicuramente un'iniziativa lodevole, perché per la prima volta il Ministero non taglia ma dà. È chiaro che, ripeto, come ho detto prima, è una goccia nel mare. Tenga conto che gli edifici scolastici, perché non bisogna confondere le scuole con gli edifici scolastici in Italia sono 40.000 circa. Ci sono scuole che hanno 7-8 in Abruzzo, c'è una scuola elementare che ha 12 plessi in 6-7 comuni differenti, quindi vuol dire carta igienica, CD, libri, quaderni, penne e tante altre cose. E quindi in più sono le scuole, come titolarità di scuola, sono qualche cosa come 9.500, grosso modo 10.000. Ripeto, la cifra è importante come segnale, ma è assolutamente insufficiente. Senza il contributo volontario le scuole non sopravviverebbero, fermo restando che la scuola deve avere l'onestà intellettuale, ma prevista anche dal codice, di chiarire che si tratta di un contributo volontario, di mettere mettere la destinazione d'uso, e queste cose sono tutti compiti del consiglio d'istituto, non del singolo preside o dei docenti, per cui i genitori che sono rappresentati nel consiglio d'istituto devono esercitare la loro funzione democratica in maniera piena, non possono semplicemente poi andarsi a lamentare. Ecco, mi meravigliavo che prima l'ascoltatrice, che ha detto far parte del consiglio d'istituto, sostenga che se non c'è l'assicurazione integrativa il ragazzo non può uscire. Qualcuno deve averglielo detto, ma subito, subito il preside l'ha bacchettata. Vincenzo, buongiorno, ci chiama da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno a voi e ai suoi ospiti. Io ho effettuato ieri la registrazione sul portale, quindi mi sono registrato, e l'iscrizione per mio figlio alla prima elementare. Sì. E nel riempire tutto i campi non mi sembra che mi è stato chiesto il contributo volontario. Poi ho finito la registrazione e quindi mi è stata rilasciata la registrazione, la ricevuta. Certo. È stata una procedura corretta? Carla, il contributo dice, ho fatto l'iscrizione, quindi l'ha portata a termine, ma del contributo, della richiesta del contributo non ho avuto nota. E infatti. Esatto. Sì, esatto, questo è così che va, nel senso che l'iscrizione online è un'iscrizione obbligatoria da fare in questo periodo dell'anno, entro il 15 febbraio, ma c'è un momento, in un momento successivo si compie l'iscrizione presso la scuola che ha accettato la domanda. Quindi quel momento di completamento dell'iscrizione può essere fatto la richiesta di contributo volontario, ma per quanto riguarda l'ascoltatore che è alla scuola primaria, io non credo che abbiano da pagare il contributo scolastico volontario alla scuola primaria. È un discorso che riguarda soprattutto i cicli scolastici delle superiori. Quindi ecco, anche questo si deve un attimo informare a livello di quando sarà insomma il momento di completare l'iscrizione con il preside. Andiamo a Bergamo, c'è Natalia, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ascolti, stavo ascoltando appunto di questi tutti i contributi volontari, assicurazioni, tutto quanto. Mi viene una domanda. Com'è possibile che negli altri paesi d'Europa riescano a sostenere tutte le spese degli studenti, addirittura anche il trasporto che hanno gli studenti da casa a scuola, e noi non riusciamo nella nostra scuola italiana ad avere carta igienica, fotocopie, l'indispensabile o il necessario? Com'è possibile questa differenza? Allora, giro la domanda di... c'è un po' di eco al nostro preside, l'ho chiamato ormai nostro dottor Rusconi. Sì, ecco, mi sono allargata un po', vero? No, ma io non sono importa. Un aficionado di Radio 24, ecco, ormai quindi... sono drogato da Radio 24, mattina mi sveglio con Radio 24. Un tormentone. Non è uno spot, è proprio che vi apprezzo molto. No, stavo dicendo che anzitutto non è come dice l'ascoltatrice, non è in tutti i paesi d'Europa che questo avviene, per esempio in Grecia o in altri paesi sappiamo che questo non avviene, però in quei paesi in cui avviene, cioè la Francia, questi paesi molto evoluti dal punto di vista scolastico, il Regno Unito, la Germania, l'Olanda, il Belgio eccetera, vuol dire che c'è una diversa classe dirigente, una diversa classe politica con una sensibilità diversa, e posso aggiungere evidentemente elettori diversi che non si fanno semplicemente trascinare dal ciuffo bello di una persona o dalle movenze aggraziate di una deputata, ma vanno a vedere, come dicono i cinesi, non mi interessa il colore del gatto, mi interessa che prenda il topo. Quindi non possiamo scaricare tutto sulla classe dirigenziale italiana, politica. Molto spesso dipende da noi italiani che siamo insensibili a certe tematiche. Lo si vede nelle statistiche. Quando vengono fatte le statistiche, l'importanza che ha la scuola è una di quelle più in basso. Le prime sono di altro tipo. Quindi non lamentiamoci in soldoni, no. Dice. Ecco, però. Prendiamocela con noi stessi. Ecco, un mea culpa. Ad addolcire però un pochino la pillola resta il fatto che questo importo si può portare in dichiarazione dei redditi e che parzialmente lo Stato ce lo restituisce. Carla, intanto ricordiamo come va indicato in dichiarazione dei redditi. Allora, diciamo che si può scaricare appunto il 19% di questa di questo importo, erogazione, sì, liberale, ecco, diciamo, l'importante è che sia espressamente citata la causale di erogazione liberale per una di queste, diciamo, di questi settori, innovazioni, sì, tecnologica o ampliamento dell'offerta formativa o per l'edilizia scolastica. Per poterla, diciamo, scaricare questa parte, è molto importante ricevere una ricevuta di versamento. Allora, qual è il problema? Che spesso per la confusione che si fa tra le spese di contributo volontario, le spese invece quelle, diciamo, più obbligatorie che riguardano, neanche quelle in realtà, come rimborso spese, ecco, riguardano soprattutto la, l'assicurazione e il libretto di giustificazione, per dirne, sì, ecco, diciamo che è importante che questa sia esplicitamente contraddistinta come erogazione liberale anche nel bollettino. Ecco, allora la parola magica deve essere erogazione liberale, Carlo. Esatto, esatto, deve essere espressamente riportata. Allora, si chiude la prima parte di Cuore Denari. Se avete dubbi, se volete raccontarci delle storie, se avete ancora delle richieste, come sempre scrivete all'indirizzo della nostra posta elettronica Cuore Denari, Radio 24, e noi inoltreremo naturalmente le vostre richieste ai nostri gentili esperti. Ringrazio Mario Rusconi, il nostro preside, il preside di Radio 24, ormai le posso dare questo appellativo, e la collega Carla Ardizzone per essere stati con noi, per la chiarezza. Speriamo di avervi aiutato un po' a dipanare questo problema, e restate con noi, noi restiamo a scuola, perché è proprio spesso a scuola che si formano tanti ricordi che ci portiamo dietro nel tempo. Cuore e denari. The man. Ricordi, canta la grandissima Barbara Streisand, e proprio di questo parleremo adesso insieme a voi e insieme al nostro ospite, nonché caro amico, che è in linea con noi. Buongiorno ad Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta. Alberto, ciao, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi noi vorremmo capire il peso che certi ricordi della prima parte della nostra vita, insomma quelli relativi a infanzia e adolescenza, possono giocare nella nostra vita di adulti, nel qui ed ora. Per voi psicoterapeuti è certamente facile capire di che cosa stiamo parlando, ma per gli ascoltatori forse è un po' più complicato. Ci vuoi fare allora degli esempi concreti? Ma sì, direi che ci succedono magari molte cose nell'attualità, nel qui ed ora, come hai detto tu, che non ci saremmo aspettati da noi stessi. Ci troviamo magari a funzionare nell'esatto modo contrario che invece avremmo desiderato per noi stessi. Mi spiego, siamo stati magari vittima di genitori un po' violenti che hanno usato la violenza fisica, avevamo detto a noi stessi: ah, io non picherò mai i miei figli, e poi ci troviamo invece automaticamente a usare esattamente lo stesso codice. Oppure abbiamo subito magari un abuso, anche un abuso sessuale quando eravamo bambini, e sentiamo che questo nel qui ed ora della nostra vita di oggi impatta in modo molto potente magari la nostra sessualità, il nostro modo di entrare nelle relazioni con gli altri. Ecco, un sacco di cortocircuiti quasi automatici di cui noi non abbiamo una completa spiegazione da darci, che però influenzano in modo molto consistente e significativo la nostra vita nel qui ed ora. Alberto, tu dici insomma che noi siamo il risultato della nostra storia. A volte però la nostra storia è stata bellissima, altre volte per qualcuno in particolare è stata invece faticosa, in salita, piena di curvi, di inciampi, di difficoltà. Sono queste le persone che dovrebbero chiamarci oggi, Alberto? Ma direi che se oggi poi il lavoro che vogliamo fare insieme agli ascoltatori è proprio capire quanto il peso dei ricordi che ci ha fatto male è ancora dentro di noi e non ci fa essere persone completamente libere da quel peso, da quel ricordo, ecco, allora oggi effettivamente è la vostra puntata. Ognuno di noi crescendo ha vissuto magari dei traumi che potremmo definire con la T maiuscola, cioè traumi maggiori, situazioni in cui si è trovato coinvolto suo malgrado, che hanno lasciato magari proprio una cicatrice profonda nella nostra memoria emotiva. Penso a chi ha dovuto affrontare magari una malattia molto seria, chi si è trovato coinvolto in un incidente. Penso alle persone che hanno vissuto un terremoto. Ecco, questi sono proprio attentati al nostro istinto di sopravvivenza. E quelli che tu chiami tatuaggi emotivi, che ci portiamo dietro anche se magari li nascondiamo. E poi ci sono i traumi, quelli con la T minuscola. Dici proprio bene, cioè possono proprio essere quelle micro cose che invece cumulativamente abbiamo accumulato nella nostra vita. Facciamo un esempio concreto. Diciamo agli ascoltatori di chiudere gli occhi e di immaginare qual è l'espressione tipica che la loro mamma si portava in giro nella vita quando loro erano bambini. Alcuni ascoltatori ricorderanno una mamma con un'espressione molto allegra e gioviale, altri invece avranno avuto magari una mamma molto ansiosa e molto spaventata. Ecco, aver avuto davanti un volto di una mamma così spaventata e ansiosa per ogni piccola cosa può aver generato dentro di noi un atteggiamento fortemente problematico nei confronti poi della nostra esistenza, cioè potremmo trovarci in una situazione che ci fa sembrare ogni piccolo ostacolo come un'enorme montagna da scalare, perché ci sentiamo un po' impotenti e un po' spaventati. Abbiamo dedicato la prima parte della nostra puntata all'iscrizione scolastica, al contributo volontario, che forse dovrai dare anche tu, Alberto, perché sicuramente sì, con quattro figli con qualcuno cadi esatto. Anche tu. E a proposito di scuola, a volte è il periodo che abbiamo passato tra i banchi di scuola che in qualche modo ha condizionato anche le nostre scelte future, le nostre sicurezze e insicurezze. Penso a chi ad esempio è stato preso in giro da un bullo, oppure è stato preso in giro perché andava molto bene a scuola o invece molto male, o era considerato magari un po' goffo o sovrappeso. Alberto, sono tutte queste situazioni che possono comunque lasciare dei segni. Dici molto bene, perché sono proprio quelle situazioni che nella vita ci hanno insegnato qualcosa su noi stessi, o meglio, mentre noi le stavamo vivendo, abbiamo detto a noi stessi delle cose che ci riguardavano e che magari non ci hanno fatto molto bene. Per esempio, se noi venivamo considerati da tutti i ciccioni della classe, noi quella cosa abbiamo magari cominciato a crederla dentro noi stessi, abbiamo cominciato a dire: io non valgo niente, io non sono capace di fare niente, perché questo è quello che ci restituiva. E questa credenza su di noi poi magari l'abbiamo estesa a moltissime aree della nostra vita. E allora vi chiediamo di intervenire, di raccontarci, di tornare indietro nel vostro passato, alle scuole, magari elementari, nelle scuole medie, qualche cosa è successo, vi siete sentiti a disagio? Alberto vi rimandava al volto della vostra mamma, un volto sorridente o un volto invece pieno di ansia, oppure un volto quasi imperturbabile. 800 24 00 24, vi chiediamo di fare questo lavoro con noi, perché le neuroscienze oggi ci aiutano a capire come e perché la forza del ricordo può influenzare il modo in cui lavora la nostra mente. È così, Alberto? Sì, devo dire che le neuroscienze hanno fotografato bene il nostro cervello e hanno fondamentalmente scoperto che noi abbiamo un'area del cervello che è quella fortemente emotiva, cioè quella che sente, e un'area del cervello che è quella che invece pensa e costruisce significati. Quando noi ci troviamo così in balia dei residui emotivi di ricordi negativi del nostro passato, è molto probabile che sia successo questo, cioè che sia stato attivato in modo molto potente il nostro cervello emotivo, che noi abbiamo perciò sentito e provato emozioni piene di disagio e non siamo riusciti però a collegare queste emozioni con l'area superiore, certo, quella cioè che produce pensieri e significati e che in qualche modo le può addomesticare. Ed è proprio questo scollamento tra emozioni e pensieri che spesso ci fa trovare anche a 20 anni di distanza in balia di quello che avevamo provato, come se fossimo in quel momento lì, anche se siamo nel qui ed ora di oggi. Cuore e denari. Ricordi che noi una notte non riuscivamo a dormire, noi trovammo il film, il posto delle fragole sul via Cava, restammo tutta la notte a guardarlo, lo ricordi? Fu una cosa fantastica. Sì. Quello fu uno dei grandi momenti. Oh, quando stavamo andando alla cena di facoltà e non me lo scorderò mai, noi nella quinta strada con quella notte buia e gelata si camminava in centro. E ti ricordi che all'improvviso decidemmo di non andare alla cena e dicemmo al diavolo, e noi, era una notte così bella, siamo entrati nel Central Park e ricordi, era così innevato quella notte, cielo, credo, si contavano le stelle, eh? Tu eri talmente bella con quel vestito nero, davvero. Torniamo a parlare dei ricordi oggi insieme ad Alberto Pellai. Alberto, ci sei? Sei ancora in linea? Wow. Sì, certo. Ti ricordi che sei in onda. Certo. Volevamo proprio raccogliere i vostri ricordi e aiutarci e aiutarvi con naturalmente Alberto che ci condurrà in questo percorso a capire quanto e come i ricordi del passato, le nostre esperienze, anche piccole esperienze positive o magari alcune dolorose, stanno condizionando il nostro qui e ora. E a proposito del qui e ora, Alberto, stiamo dicendo, e tutti noi lo sappiamo, che ci sono momenti che lasciano il segno. Forse qualcuno all'ascolto ha la consapevolezza di vivere proprio uno di questi o teme che a viverlo sia il proprio figlio, il proprio compagno. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando di scuola, allora mi viene subito da pensare ai genitori di ragazzi che non si sentono accettati dai compagni o che stanno affrontando fatiche particolarmente impegnative. Anche questi momenti passeranno, no? Fanno parte, si dice, no? Della vita, è un'occasione anche di crescita, ma come possiamo viverli nel modo migliore? Come possiamo evitare che si trasformino poi in dei segni, in quei tatuaggi emotivi a cui tu spesso fai riferimento? 800 24 00 24, devo dire che al nostro numero, al 349 238 6666, arrivano racconti di storie anche molto dolorose di ascoltatori che sentono, Alberto, il bisogno di scrivere un messaggio ma che mi dicono non lo legga perché non voglio che si sappia, ma ho bisogno proprio di cacciarlo fuori. Alberto. Dico che tutte le esperienze dolorose e faticose in realtà possono essere rielaborate proprio attraverso la narrazione e il racconto, cioè poterle trasformare in parola significa poterle mettere al di fuori di sé, poterle vedere dentro alle parole con cui le raccontiamo e soprattutto ci permettono anche di fare un'altra operazione, cioè di non trovarci incastrati nell'identificazione con l'evento traumatico che è successo oppure con l'errore che abbiamo fatto. Cioè credo che gran parte della fatica sia proprio questo, noi diventiamo quello che ci è successo di male e non riusciamo a allontanare la nostra identità da questo evento negativo. Quindi la scrittura potrebbe essere già terapeutica? Sì, assolutamente, poter scrivere per esempio è proprio un mezzo di assoluta autoterapia, poter dire ad altre persone di cui ci fidiamo quello che ci è successo è un altro modo per poter venirne fuori ed ecco perché per esempio la relazione col terapeuta è una relazione che ci fa bene. Voglio dare subito la parola ai nostri ascoltatori, abbiamo Vania da Pisa, Chiara dalla provincia di Macerata e Sara dalla provincia di Lecco. Vania, benvenuta. Buongiorno a tutti, spero di non mettervi a piangere. Allora, sì, proviamoci. Oddio, scusate. Allora, io volevo dire che per me la scuola, ecco, all'inizio agli elementari sono state un vero e proprio inferno. Sì. Siccome venivo da una famiglia, diciamo, che ecco, i mezzi finanziari non ne aveva tanti, allora mi sono dovuta subito scontrare con il fatto dei parenti, dei vicini di casa, dato che io vivo qui in una zona che è una zona industriale, allora in genere succedeva che, dato che erano gli anni 60, specialmente le bambine, quando avevano frequentato la seconda elementare, praticamente terminavano gli studi, perché dicevano, ma tanto è femmina, cosa vuol dire farla studiare, tanto quando ha imparato a fare la sua firma ha imparato anche troppo. Addirittura. E io devo dire che il secondo anno delle elementari per me è stato un inferno, perché tra la paura, perché ero già consapevole all'età di 8 anni che in casa mia soldi, insomma, ce n'erano pochi. Ne giravano pochi. Però, dato che mio padre era militare, a quel tempo gli stipendi erano molto bassi, però lui mi diceva sempre, non importa nulla, faremo sacrifici, faremo quello che è possibile, però te intanto cerca di finire le elementari. Però io, ecco, con questa pressione che avevo anche da parte dei parenti, perché dicevano mandala a servizio, addirittura mi volevano mandare a servizio a Roma. Poi altri dicevano ma avevano in Maremma, insomma. E questo, questo clima familiare, Vania, l'ha condizionata anche nelle scelte nelle scelte di vita? Il fatto è che io per finire gli studi, sa cosa facevo? Avevo una canina, un giorno uscì da scuola un po' prima, mi accorsi che in terra c'erano 100 lire. Allora tutte le volte passavo davanti a questo bar, quando trovavo qualche 100 lire in terra me le mettevo da parte, smisi di comprarmi la merenda, tutto. La canina che avevo addirittura un giorno mi portò un tappo della birra. Allora io capì da quel tappo della birra che gli potevo insegnare a cercare questi soldi lasciati in terra. E quindi Vania, lei ci sta raccontando che questo è stato sono stati momenti molto dolorosi, difficili, però Alberto ci racconta anche che pur piccola, pur essendo così piccola, ha cercato di reagire. Sì, è quello che normalmente facciamo tutti, cioè di fronte a una difficoltà comunque troviamo il nostro modo di venirne fuori. Direi che l'intensità però emotiva con cui ci ha fatto questo racconto un po' ci dice che una piccola parte di lei bambina è molto viva dentro di lei, probabilmente ancora sofferente. Allora sarebbe poi interessante verificare se nel qui ed ora, nella vita di oggi, a volte si ritrova in situazioni completamente differenti a rivivere lo stesso stato d'animo di quando era così bambina e così in difficoltà. Ecco, quello è un momento un po' da sbloccare, cioè imparare a guardarsi allo specchio e dire ma io oggi sono quella di oggi, non sono più la bambina che ha sofferto così tanto e posso davvero cambiare il corso degli eventi, mentre allora ero un po' in balia di tutto quello che mi succedeva intorno perché non avevo molto potere d'azione. Voglio leggere un messaggio che mi ha scritto Emma, che mi è arrivato, insomma, mi ha colpito molto, e ci scrive che ci sono episodi che lasciano cicatrici, altri ben peggiori diventano piaghe. Alberto, tu sei anche medico e quindi tra cicatrici e piaghe c'è una grande differenza. Ma sì, perché in fin dei conti la cicatrice è il segnale di una riparazione, qualcosa è avvenuto che ci ha permesso di risistemare tutto ciò che si era rotto, chiaramente lasciando un segno. La piaga invece è qualcosa che continua a non guarire e conseguentemente aumenta progressivamente il danno. E questo è effettivamente una buona immagine di alcune esistenze che nel qui ed ora sono tuttora totalmente in balia del passato. Per esempio persone di 40 o 50 anni che vivono ancora con la rabbia, l'odio e il rancore rispetto ad alcune relazioni familiari e considerano i danni della loro vita del qui ed ora come il risultato e la colpa dei genitori che hanno avuto, no? Bisogna imparare che a 50 anni noi siamo gli uomini e le donne di oggi completamente responsabili della nostra vita, anche se la partenza è stata così faticosa. In salita, faticosa, però dare continuamente la colpa al genitore che non ci ha compreso, non ci ha capito, ci ha ostacolato, forse è un alibi che alla lunga può costarci molto caro. Chiara, buongiorno dalla provincia di Macerata. Buongiorno, allora, ho subito un trauma, un lutto, la mamma è morta che avevo 20 anni dopo una lunga malattia e io portavo un busto da ragazzina per molti anni, quindi mi ha un po' destabilizzato durante l'adolescenza. Sì. Ora, avendo un figlio 18enne, probabilmente mi rendo conto di aver passato a lui le mie ansie e volerlo subito grande, probabilmente con il pensiero che io potessi mancare in poco tempo, come mia madre. Quindi, e quindi adesso si sente in colpa perché nei confronti del figlio, ripensando anche a quello che è stato il rapporto con la madre. Ci sono dei lacci da cui Alberto non ci si riesce mai a liberare. Riproponiamo a volte anche gli stessi modelli che ci hanno fatto soffrire. E sì, così è, soprattutto poi nel ruolo di genitori, come racconta bene la signora, spesso ci portiamo dietro un po' il bambino che siamo stati e il genitore che abbiamo avuto, quindi di sicuro forse in questo atteggiamento di accelerare la crescita di un figlio in modo che fosse presto capace di stare da solo sulle sue gambe, così che qualsiasi cosa fosse successa nella vita, lui comunque ce l'aveva fatta. Ecco, in quell'accelerazione forse c'è un elemento che non appartiene al figlio, ma appartiene alla storia faticosa della mamma. Andiamo a Sara, ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno Sara, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, io porto un esempio simile, anche se il trauma è stato più piccolo, insomma. La mia bambina ha 3 anni e da quando è nata la sorellina 3 mesi fa è tornata un po' spesso a farsi la pipì addosso. Mm. Io per un po' sono stata comprensiva, ho cercato di capire il perché del legato chiaramente alla gelosia, alla nascita della sorellina, e quindi di conseguenza mi sono comportata in una certa maniera con lei. Poi non ce l'ho più fatta e mi è capitato di sgridarla, di farla di volerla fare sentire in colpa, insomma. E mi sono sentita un mostro chiaramente da mamma, e riflettendo un po' sul perché del mio comportamento, mi è venuto un po' in mente un episodio di quando io ero piccola in cui ho provato proprio vergogna. Ricordo questo materasso grosso vicino alla stufa perché avevo fatto la pipì a letto, e adesso non so i miei genitori come mi avevano, non mi ricordo come mi avevano, se mi avevano sgridato, punito, però lei ha riproposto alla figlia la stessa situazione, e questo è come un trigger, ha riportato indietro nel tempo e ci si sente 2 volte in colpa, Alberto. Sì, però questa mamma, che è così consapevole effettivamente di aver fatto un errore con la propria bambina, può proprio riavvolgere il nastro, cioè può tornare dalla sua bambina e dire: guarda, ma lo sai che quel giorno che mi sono così arrabbiata per la tua pipì addosso ho veramente fatto un errore, non dovevo, perché è chiaro che le bambine piccole a volte possono farsi la pipì addosso, soprattutto quando in casa è arrivata una nuova sorellina. Ecco, con questo modo di riraccontare tutto quello che è accaduto, quello che può succedere è la riparazione di quello che potremmo definire un microtrauma relazionale tra mamma e figlia. E quindi si può lasciare il passato nel passato. Tra l'altro c'è un libro che racconta la storia di 7 ragazzi che, per quanto giovanissimi, hanno purtroppo un passato che influenza in modo molto forte e doloroso il loro presente. L'autore le ha raccolte, ha raccolto le loro storie in un libro. Abbiamo il libro con noi Don Claudio Burgio, benvenuto. Benvenuti anche a voi, grazie. Il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, che ha scritto un libro molto, molto interessante, che noi oggi vogliamo portare all'attenzione dei nostri ragazzi, che parla di ragazzi cattivi, edito da Giunti, intitolato proprio Ragazzi Cattivi. Insieme ad Alberto l'abbiamo scelto perché da queste storie si può imparare molto. Sono storie che aiutano i genitori che hanno ragazzi bravi anche. Don Burgio. Sì, perché poi sono adolescenti, gli adolescenti che commettono molte reati però rimangono ragazzi, quindi aperti a cambiamenti incredibili, per cui è sempre importante aiutare questi ragazzi a rileggere il passato, ma perché il passato non diventi qualcosa che li comprime e poi non li aiuta ad evolvere. Certamente questi ragazzi commettono reati, arrivano a volte a scelte devianti davvero gravi, però perché sono un po' prigionieri, sono cattivi in questo senso, nel senso latino, no? Di prigionieri, schiavi del loro passato. Ecco, noi li aiutiamo anche in comunità, già al Beccaria, a invece rileggere, a rielaborare il loro passato perché non faccia più male. Ma sono sempre recuperabili queste storie di vita che iniziano così faticosamente, che forse sono il risultato di esperienze fatte ai tempi dell'infanzia molto dure? Quando un ragazzo ha il coraggio e si consegna e si affida, ha il coraggio, dicevo, di rielaborare il proprio passato, quindi io dico di riconciliarsi con le proprie ombre del passato, allora sì che nascono dei cammini veramente nuovi e dei cambiamenti davvero possibili. Il passaggio però più forte, più difficile è proprio questo: non leggere il passato come qualcosa di opprimente, come qualcosa di già scritto e inevitabile, ma aiutare il ragazzo a guardare con tenerezza, anche con consapevolezza, la propria storia pregressa, in modo tale da aprirsi a un cambiamento. Ecco, questo libro, devo dire, è testimonianza di questo, cioè il fatto che 7 ragazzi si autonarrino, abbiano cioè avuto questo coraggio di esporsi, di rileggere la propria storia passata e presente. Ecco, ha permesso loro di fare questo salto, di questo passaggio verso un cambiamento. Don Claudio, io vorrei che chiudere questa nostra chiacchierata con una riflessione che lei rivolge ai genitori, che sono genitori non dei ragazzi difficili come di quelli di cui lei racconta le storie, che si raccontano nel suo libro. Spesso no, noi genitori ci descriviamo più la fatica di essere genitori che il piacere di farlo. Don Claudio? Sì. Era andata via la linea. Era andata via la linea, ma io temo di avere proprio 30 secondi. Un messaggio per i genitori all'ascolto. Non aver mai paura. Certamente i ragazzi, soprattutto in adolescenza, affrontano stagioni impegnative, un genitore è facilmente preda della paura. Ecco, farsi aiutare, confrontarsi, fare rete con altre famiglie. Ma mai avere paura, perché nella paura non si riesce a educare. Grazie a Don Claudio Burgio, grazie ad Alberto Pellai. Ritorneremo sicuramente su questo tema insieme a Deborah, che torna domani. Adesso io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.